Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, benvenuti, 16.09, Luca Tremolada al microfono, sono in compagnia di Antonio Dini, buongiorno. Buongiorno Luca. E ci prepariamo all'epidemia oggi, in un certo senso, no? Beh, l'epidemia nel senso che arriva l'autunno, arriva Natale, l'inverno. Addirittura l'inverno, stiamo entrando in inverno, vengono le malattie stagionali e a quanto pare ci sono anche, a quanto pare, insomma, possiamo dire che ci sono malattie stagionali anche nel nostro mondo, quello che fa bit, e quindi malattie stagionali dei computer. E siccome siamo entrambi di cattivo umore, abbiamo deciso di dedicare una puntata alle grandi truffe, a quello che non funziona nei computer, ai pirati, gli hacker, dinne un'altra. Non lo so, i worm. I worm, i malware, insomma una puntata dedicata a tutto ciò che entra dentro al nostro computer, che fanno beep beep e insomma ce lo distruggono, ce lo fanno a pezzi, ce lo rovinano. Per portare avanti questa, diciamo, puntata in leggerezza, no? in serenità, abbiamo Francesca Di Massimo, responsabile della sicurezza e privacy di Microsoft, che è un po' sicuramente il sistema operativo più nel mirino dei pirati, no? Buongiorno. Buongiorno a tutti. Poi abbiamo in collegamento Umberto Rapetto. Buongiorno Umberto. Buona giornata, ciao. Buona giornata, colonnello della Guardia di Finanza, autore di Nova 24, autore di Nova Cartaceo. E soprattutto impegnato in prima linea a combattere quella che possiamo considerare un po' il conflitto più caldo per quanto riguarda il mondo digitale, perché tra le varie forze dell'ordine impegnate, la Guardia di Finanza assolutamente, Luca, ha un ruolo da protagonista per quanto riguarda il contrastare l'azione. Colonnello, mi corregga se sbaglio. Criminali digitali. Mi sembra giusto che facciamo un po' di spot alla Guardia di Finanza, perché altrimenti è giusto vendere il mio brand. Siamo sicuramente molto competitivi, non solo a livello nazionale ma internazionale. Abbiamo come arma segreta nel cassetto un entusiasmo pazzesco, un dinamismo sicuramente non comune. Forse siamo difficili da immaginare per chi ha nel proprio stereotipo gente molto ingessata. Siamo esclusivamente free, creativi, capaci di giocare una partita con gente che ogni giorno sa inventarsene qualcuna, e magari noi l'abbiamo già pensato il giorno prima, e questo, ecco, è bello. Allora, genovese innanzitutto, Umberto Rapetto, se volete raccontare insomma di qualche frode, di qualche truffa subita o chiedere consigli, il numero di telefono è 824-00024, gli sms sono 349-238-6666. Finiamo il giro del tavolo. Abbiamo Mattia Momga, ricercatore dell'Università Statale di Milano, che poi lo interrogheremo sulla seconda parte della trasmissione. Buongiorno. Buongiorno. È un ritorno. Un ritorno, Momga. L'esperto di sicurezza. E abbiamo un genio dell'informatica, o così lo vendiamo, ti vendiamo così, speriamo. Roberto Paleari, giovanissimo, 27 anni, dottorando sempre all'Università di Informatica di Milano. Esatto, buongiorno a tutti. Allora, partiamo direttamente con Microsoft, direi. Assolutamente sì, partiamo con Microsoft, che è qui perché, come dicevamo prima, è il soggetto più grande, che occupa più spazio, se non altro, sulla scena digitale, e che si sta occupando anche di sicurezza, nel senso che si sta chiedendo che cosa si può fare per rendere più sicuro l'ambiente digitale per le persone, per chiedergli innanzitutto una cosa molto semplice: ma la sicurezza in Italia dei PC che sono connessi alla rete in Italia com'è? Come siamo rispetto agli altri paesi? Siamo più o meno sicuri? Gli italiani sono più o meno vaccinati e previdenti? Allora, dunque, gli italiani, come sono gli italiani, come sono i PC degli italiani? Certo. Effettivamente l'analisi, bisogna fare un'analisi non superficiale, soprattutto basata quanto più su dati oggettivi, ed è quello che abbiamo fatto con l'ultimo rapporto semestrale che abbiamo da poco pubblicato sull'andamento e sull'evoluzione del malware, cioè di quel codice dannoso di cui parlavamo prima, che infesta i nostri PC e può fare danni sia al PC sia a noi stessi. E in questo senso, da questo rapporto, abbiamo tirato fuori anche dei dati che riguardano specificatamente l'Italia. La base dati utilizzata per raccogliere tutti questi dati è molto grossa. Pensate che nel mondo sono stati raccolti dati provenienti da più di 450 milioni di PC. E 450 milioni è una cifra allucinante, mostruosa. Mezzo miliardo, quasi mezzo miliardo di PC collegati a internet. Esatto, peraltro. Collegati a internet, che i cui proprietari volontariamente hanno scelto comunque di mandare queste informazioni sulle infezioni che i loro PC hanno e preso alla Microsoft. Insomma, cosa è emerso? Rullo di tamburi, cosa che effettivamente probabilmente non ci aspettavamo. Ultimamente, negli ultimi 6 mesi, tutti abbiamo sentito parlare di Conficker, questo worm terrificante che ha infestato le aziende, è entrato nelle reti aziendali e da un PC se ne è mangiati centinaia, migliaia in pochi minuti. Vedi che non ce lo dice, non ci vuole tenere fino all'ultimo, non ce lo vuole dire. E in realtà Conficker è solo al terzo posto, nel senso che ha infettato negli ultimi 6 mesi 90.000 PC in Italia, ma al primo posto abbiamo un Trojan, che è un'altra forma di codice dannoso, quindi non è un worm, e infesta più i PC, e quelli un nome degli utenti bello, casalini, brutto, si chiama WinTrim. WinTrim. Ed è più cattivo di tutti, ha insomma. Infestato 343.000 computer. Però mi dicevi anche che insomma, il peggior diciamo nemico siamo noi, nel momento in cui insomma ci muoviamo in maniera leggera, esatto, sulla rete, parlando di antivirus, esatto, che è un po' la novità del momento questa. Infatti anche questo WinTrim come arriva con delle pop-up di pubblicità, per cui ecco, spieghiamo bene, pop-up di pubblicità vuol dire che io clicco un banner, una maschera, un manifesto digitale, ma oppure anche aprendo una mail di spam, aprendo una mail che non so da chi viene, cliccando su un link all'interno di una mail mi compare questo pop-up, un pop-up che sembra una pubblicità, e di fatto invece poi quello che è un pezzo di codice maligno che si installa sul PC, che raccoglie, può monitorare l'attività dell'utente, può mandare dati a server remoti, cioè a qualcuno che da lontano poi raccoglie queste informazioni. Occhio perché la posta elettronica non è secondario, c'è una ricerca che è appena uscita oggi che dice che gli italiani passano durante un anno 7 giorni, quindi 24 ore per 7, a guardare e rispondere alla posta elettronica, e probabilmente l'attività principale che viene più fatta noiosa anche, assolutamente la più noiosa, ma anche la più diffusa, e il livello di infezione che c'è nei PC italiani, i PC compromessi nel nostro paese, ogni 1000 PC è di 6,9, quindi ecco, lo 0,6,9%, diciamo, quindi ecco come siamo, che è un dato più basso rispetto alla media internazionale, esatto, che è 8,7, poco più basso, sicuramente molto più basso di alcuni invece posti nel mondo che sono molto infetti, come per esempio possono essere la Serbia e il Montenegro, che hanno per cui questo numero è 97, quindi ecco, però mi faccia capire, nel senso, è vero, quindi abbiamo un numero di PC infestati, diciamo così, con la febbre alta in media, anzi qualche punto sotto la media, però insomma, mi diceva Mattia Monga che però noi siamo anche noti per essere un centro di produzione di attacchi, insomma, non... Sì, più che produzione di attacchi, molto spesso le macchine italiane sono utilizzate come testa di ponte per fare attacchi perché altrove. Non le ripuliamo, siamo gli utili idioti che esatto, perché purtroppo, siccome appunto la cultura comunque in questo ambito è piuttosto poco diffusa, spesso noi lasciamo anche per tempi piuttosto lunghi delle macchine infette sulla rete, e quindi poi possono essere sfruttate. Ecco, ma cosa succede se uno ha il computer infettato e non lo ripulisce? Cioè, a parte farsi un danno da solo, evidentemente, potrebbe anche incappare in altre cose, no? Potrebbe, insomma, danneggia anche la comunità degli altri PC. Beh, allora, diciamo, nel caso generale senz'altro sì, ovviamente se uno ha una connessione col modem così temporanea, il danno che fa è molto piccolo, però con da una parte le connessioni permanenti, che ormai sono abbastanza diffuse, la insomma, DSL, almeno esatto, la DSL, così, e dall'altro canto ci sono poi i computer delle piccole aziende, che invece sono spesso piccole, medie, anche grandi aziende, intendiamoci, che sono spesso connessi a reti aziendali, quindi possono fare male alla rete aziendale stessa. Parlo naturalmente facendo citando anche il caso per esempio dell'università, no? Noi come università siamo un'organizzazione molto grande e spesso capita che alcune macchine nostre siano virate e rappresentano virate vuol dire che sono affette da un virus, infettate da un virus, virate a destra perché a sinistra. Virate infatti me lo immaginavo anch'io e appunto queste macchine possono fornire una maniera agli attaccanti per penetrare in altri punti della rete che altrimenti sarebbero difficilmente accessibili. C'è un ascoltatore che si chiama Delchi che ci ha scritto una cosa che secondo me racconta bene un po' quelle che sono le guerre di religione del mondo del software. Adelchi scrive: ma nessuno si sbatte per creare un virus contro il Mac e contro Linux, cioè perché c'è un po' questo tema, no? Cioè, certo, è un tema importante che credo che Microsoft, gli esperti... perché credo che sicuramente Microsoft abbia qualcosa da dire, hanno alzato il ditino. Sì. Sicuramente. Qual è l'obiettivo di fatto di questi dei criminali informatici? È quello di raggiungere molti utenti, di trarne dei vantaggi, per trarne dei vantaggi anche economici, raccogliere molti dati, bisogna targettare molti utenti. E molti utenti in questo momento sono più su Windows che su altre. Windows ha il 95% del mercato, quindi è facile dire che conviene. Questo pensa è anche uno dei motivi per cui i virus nei telefonini sono meno diffusi, nel senso che ci sono meno smartphone, meno telefoni intelligenti rispetto alla totalità dei telefoni e quei relativamente pochi sono di sistemi diversi, quindi questa variabilità dei sistemi operativi rende più difficile fare un virus che colpisce tutti. Ecco, allora molti gli sms, alcuni però sono domande personali sul funzionamento del PC, cioè molti utenti si domandano se hanno o meno un virus sulla base di determinati segnali. Il consiglio è quello di chiamare all'824-0024 e di spiegarlo bene perché così possiamo darvi una mano. Io però volevo chiamare in causa Rapetto per capire a quali frodi, a quali truffe nuove, insomma, diverse, originali, stiamo andando incontro nel periodo natalizio. Di fatto abbiamo osservato una fantasia incredibile da parte degli hacker, e tu poi ci hai spiegato che sono poi di fatto più che hacker, sono organizzazioni criminali. Sono organizzazioni che hanno capito quanto possa essere produttivo sfruttare le tecnologie e quanto possa essere fertile il mondo dell'interconnessione globale. Un mucchio di polli da poter spennare, pronti a disposizione, reperibili H24, reperibili in maniera multimodale per la semplice ragione che li si può beccare attraverso il telefono smart anziché attraverso un palmarino portato in giro, il computer di casa dell'ufficio. Quindi accidenti, c'è una pletora di soggetti che possono essere cannibalizzati economicamente o condotti a tenere dei comportamenti fraudolenti in maniera zombie, quindi gente che è pronta ad immolarsi di fronte alla giustizia per consentire a qualcuno di fare un business illegale. Tra gli spettri si riaffaccia il cosiddetto parceling, parcel è il pacco in inglese, che l'anno scorso siamo riusciti a tamponare facendo una buona campagna di informazione. La gente è stata attenta, non è caduta, diciamo, nella tentazione di dare seguito agli input. Fai un esempio? Se ne facciamo un esempio come? Perché funziona in questo modo: le organizzazioni criminali aspettano che a Natale siano davvero tutti più buoni e quindi mandano mail oppure inseriscono banner o pagine HTML che sono rintracciabili poi con motori di ricerca dicendo siamo delle onlus che facciamo gran beneficenza e non abbiamo bisogno di chi manda soldi perché siamo fortunatamente un'organizzazione piccola ma ricchissima e anzi state attenti a chi vi chiede soldi perché sono sempre pronti a darvi poi un bidone. Noi vi chiediamo soltanto mezz'ora, un'ora, forse due ore del vostro tempo. Sì. Noi non abbiamo una struttura logisticamente attrezzata, non abbiamo magazzini, ma stiamo realizzando una sanatorio in Africa e abbiamo necessità di spedire giù tutta la merce che una valanga di benefattori che non si fidano per l'appunto di mandare soldi, ma ci fanno pervenire oggetti già regolarmente pagati, Bene, non avendo magazzino dobbiamo recapitarlo a casa di chi volontario si presta a ricevere questa merce e poi ad avvisarci in maniera tale che il nostro furgone possa passare a domicilio, ritirare i pacchi e portarli direttamente. Che è complessa comunque, non è semplicissima la cosa. No, uno dice ma perché non rinunciare ad fare del bene quando mi costa solo aspettare un pacco che arriva a casa? Certo. Il pacco arriva a casa, certamente, può essere un televisore, un computer, può essere un qualunque gadget elettronico possibilmente costoso. Arriva questo pacco e la gente chiama l'organizzazione dicendo venitevela a prendere e la merce sparisce automaticamente, subisce il fatto che addirittura viene rilasciata una ricevuta con un certificato di apprezzamento, chiamiamolo così. Allora passa qualche giorno e qualcuno che titolare di carta di credito si trova l'addebito per la lavatrice, il televisore o il computer di prima, va a lamentarsi prima presso l'istituto di credito e poi presso le forze dell'ordine. Chiarissimo. E dice mi hanno comprato qualcosa che io non ho, semplicissimo, l'indagine dura un minuto, si va a vedere l'addebito a favore di chi è stato fatto, si trova al negozio, gli si chiede ma questa merce dove l'avete recapitata? E si finisce a casa del poveretto che si sentiva soltanto anima pia. Mi sembra pazzesco. Colonnello, sono 8 anni. Colonnello, ti fermo un attimo perché abbiamo un po' di telefonate, magari poi ci aiuti anche tu a rispondere. Abbiamo Francesco dalla provincia di Venezia, buongiorno. Pronto, sì, buongiorno. Niente, io semplicemente volevo sapere solo una cosa, praticamente quando si aprono le mail che non si conosce diciamo da dove provengono, basta solo aprire la mail per prendere diciamo il virus oppure per prenderlo bisogna poi eventualmente aprire l'allegato che c'è contenuto nella mail? C'abbiamo Monga che sa tutto, è preparatissimo, ricercatore dell'Università Statale di Milano di informatica. Allora, in generale la risposta è sì, quindi è possibile, anche perché molto spesso al giorno d'oggi i messaggi di posta elettronica che arrivano non sono in puro testo ma sono in versioni più elaborate come l'HTML con dentro magari JavaScript, cose varie insomma, quindi in generale senz'altro la risposta è sì, è possibile prendere dei virus magari non gravissimi però insomma cose che possono fare male se non altro alla privacy o altri problemi del genere. In generale ovviamente gli allegati sono ancora più pericolosi, insomma, quindi, non li tocchiamo gli allegati, non aprite quella posta, ecco, non aprite quell'allegato. Se posso fare un piccolo appunto su questa cosa, secondo me l'ascoltatore ha aperto un problema molto importante, che è quello, no, che è molto difficile per un utente occasionale, diciamo, che non ha una competenza specifica sulle tecnologie che sta usando, è molto difficile valutare quali sono i rischi a cui si espone. Faccio un esempio, forse non a tutti, adesso probabilmente l'ascoltatore che ci ha chiamato sì, ma non a tutti è del tutto evidente che la posta elettronica, per esempio, quando ci arriva con un certo mittente, quel mittente potrebbe essere assolutamente inventato o di fantasia, quindi in realtà a volte siamo indotti ad aprire delle mail dal fatto che proviene da una persona conosciuta, ma in realtà non è affatto detto che sia, perché a volte a me arrivano mail spedite da me stesso che non me le sono mai spedite. Vabbè, quindi evidentemente è un problema tuo anche che no, del computer. Paolo da Padova, abbiamo tempo solo per la domanda, poi rispondiamo subito dopo. Buongiorno. Niente, io volevo solo chiedere, mi è successo un fatto strano per quanto riguarda l'acquisto su eBay di un apparecchio cellulare e mi sono visto praticamente, oltre al valore della quota che io avrei dovuto versare praticamente per il pagamento di questo cellulare, cancellare totalmente quelli che erano i soldi presenti nella mia postpay. E mi è stata praticamente poi data come risposta che non c'è stata alcuna operazione da parte dell'utente, ma bensì è stata fatta da terzi. E questa è stata attivata attraverso una mail che ovviamente è stata mandata da PostPay, ma non era di PostPay. Bentornati, Luca Tremolato al microfono, sono le 16.33, insomma abbiamo messo su una task force per dare delle risposte sulla sicurezza informatica. Ci siamo incagliati sulla mail. Ci siamo incagliati sulla mail, avevamo una domanda in sospeso. Esatto, Luca. Paolo da Padova insomma ha provato a fare un acquisto su eBay e si è ritrovato che nonostante abbia inserito tutti i dati, non solo non ha inserito il comando, ma si è ritrovato senza avere soldi poi sul conto. Umberto Rapetto, una risposta sintetica su che cosa devono fare gli utenti quando si trovano invischiati in questo tipo di truffe. Rivolgersi da una parte alla piattaforma di contrattazione, in questo caso eBay, dall'altra non avere vergogna di rivolgersi alle forze di polizia, si possono rivolgere alla polizia postale oppure a noi del GAD, del Nucleo Speciale Frodi Telematica di Finanza, avendo cura di ricordare ogni dettaglio e di farlo subito, perché prima si agisce forse maggiori sono le probabilità di riuscire a recuperare qualcosa. Ecco, puoi dare un indirizzo su dove devono chiamare, proprio fare, allora, facciamo un po' di servizio. La mail è facilissima perché è sos@gat.gdf.it. Quindi sos@gat.gdf.it. Grazie Umberto Rapetto. Io volevo tornare con Mattia Monga per capire anche un po', insomma, non esistono decaloghi, non esistono regole, però quali sono? Proviamo a dire tre cose fondamentali da fare. Per difendersi, certo, nell'ambito della mail o in generale? Sì, nell'ambito della mail, che mi sembra quella più gettonata in questo. Allora, puntata. Uno dei problemi che ho sentito sono le mail che arrivano da sorgenti indesiderate. Ecco, purtroppo a questo tipo di mail si può far poco, ci si può difendere con i vari filtri anti-spam che ormai sono piuttosto diffusi, però più che altro, vabbè, le mail indesiderate arriveranno comunque. Bisogna fare attenzione quando le si apre. Io un consiglio che do sempre è di cercare di disabilitare nei propri client di posta elettronica la possibilità di far funzionare JavaScript e queste cose. Di solito nelle opzioni dei client c'è, ecco, disabilitate, non vi servono. Se qualcuno vuole mandarvi delle cose con delle animazioni, lo faccio in un altro modo, okay? Quindi, anzi, odiatelo se, esatto, vi mandano quelli e che mandano. Combattete la mail in HTML, così. Molto meglio il puro testo, che dà molti meno problemi, e in fondo per trasmettere delle informazioni va benissimo. Luca, però noi abbiamo tenuto in caldo uno dei nostri ospiti, il più migliore, giovane, scherzo, Roberto migliore. Paleari, che è un ricercatore, nel senso dottorando, giovane, che si occupa di fare ricerca proprio sul lato tecnico del problema della sicurezza, esatto, informatica, che è un settore che in Italia ha una sua scuola. E qual è il progetto del quale specificamente ti sei occupato più di recente? Era una cosa che ci avevi accennato prima. Ma in questo ambito, in ambito virus, malware e tutte queste cose, quello di cui ci siamo occupati e ci stiamo occupando ancora noi è lo sviluppo, diciamo, di nuovi strumenti per individuare il malware, quindi questo codice maligno che minaccia le nostre macchine prima che infetti, prima che arrivi ai nostri sistemi. Diciamo, stiamo progettando degli antivirus di nuova generazione. Ah, perché gli antivirus hanno dei problemi oggigiorno, ecco, poi ne parliamo. Ok, tanto ci abbiamo tempo e sentiamo Vincenzo da Teramo, che anche lui vuole intervenire sulle mail. Buongiorno. Sì, buongiorno, sì, scusate, sono in viaggio, mi fermo un attimo, soltanto per chiedere questo. Da alcuni giorni, due o tre giorni, mi arrivano delle mail da sconosciuti che hanno però lo stesso mio indirizzo di posta elettronica. E quindi mi chiedo com'è possibile una cosa del genere, se ci si nasconde qualche particolare pericolo, rischio. Mettiamo subito alla prova il giovane. Roberto Paleari le risponde, dottorando, attenzione. Sì, diciamo, sfortunatamente il mittente nei messaggi di posta elettronica non è molto attendibile. Questi spammer, cioè questi che mandano queste mail di spam, sono alcune volte in grado di falsificare il mittente. Quindi apparentemente una mail potrebbe arrivare da chiunque. Ma perché la mandano a nome della persona che la riceve? Questo che è stupido, secondo me. L'obiettivo di solito è quello di cercare di aggirare i filtri anti-spam, quindi questo è uno dei modi usati per aggirare i filtri. Perché il filtro sa di chi è la casella di posta elettronica e se gli arriva dallo stesso indirizzo pensa allora è buona. Sì, in alcuni casi sì, esatto. E quindi il signore cosa deve fare? Subisce questa angheria? Subisce questa angheria, sfortunatamente. Può usare un filtro anti-spam come ce ne sono tanti, ma diciamo... hanno comunque dei problemi, cioè alcune volte classificano come spam mail che invece sono buone o lasciano passare invece delle mail di spam. Questo delle mail che sono buone classificate come spam, cioè i falsi positivi, i falsi errori, è terribile perché sempre più noi oggi ci poggiamo sulla posta elettronica in comunicazioni anche importanti, segnalazioni, che rischiano di andare perse perché poi i filtri anti-spam dopo un determinato lasso di tempo cancellano. Ma non c'è solo questo, il colonnello prima accennava ad alcune delle possibili manovre che si utilizzano per mettere in difficoltà, addirittura truffare o rapinare le persone, perché a fine di lucro che vengono creati molti dei virus. Ecco, una di queste è micidiale ed è l'utilizzo di antivirus fasulli. Ecco. Ovvero si fa finta, questa mi è stata raccontata, te la spiego perché è abbastanza semplice in realtà, si fa finta di dire che un determinato sito abbia infettato il tuo PC, ti si manda verso la pagina di un antivirus gratuito, uno dice beh cavolo, con questo software gratuito vale la pena sempre di farlo, non si paga niente, e in realtà è quello il virus che tu ti installi da solo e fai girare sulla macchina, mentre invece esiste il modo anche di cercare di capire quali sono dei software antivirus di vari produttori che però sono, diciamo così, fidati, nel senso non sono dei portatori sani di virus. Francesca Di Massimo, che è la persona di Microsoft che è qui con noi oggi, per esempio, può spiegare come fa Microsoft ad aiutare i navigatori in questo senso. Esatto. L'antivirus è uno degli strumenti più efficaci contro il malware in questo momento. Però non te lo quello devi, buono. Non quello che compri. Quello buono. Quindi l'antivirus va assolutamente installato, va aggiornato come tutto il software che c'è a bordo del PC, e queste sono due regole fondamentali per trovare un antivirus che abbia una reputazione, che sia di un fornitore che effettivamente sia vero e quindi che non vada poi a crearti dei danni. Per esempio, Microsoft ha messo a disposizione una pagina sul proprio sito dove l'utente può vedere tutti i più grandi fornitori di antivirus che esistono oggi, andare direttamente da lì al link delle pagine dei fornitori degli antivirus e da lì scaricare o comprare, a seconda che l'antivirus sia gratuito o a pagamento, l'antivirus desiderato. Quindi una centralina per avere un reindirizzamento verso anche altre società che non esatto, sono, quindi certo. non stiamo facendo pubblicità a Microsoft in questo caso. No, anche perché praticamente leggo tutti gli SMS quelli. Allora, Jacopo da Modena, buongiorno. Buonasera. Buonasera, giustamente. Allora, buonasera. Io ho una domanda, ma queste persone che inviano queste mail farlocche fasulle con malware, spyware e compagnia bella, che paniere vanno a ricavare tutti questi indirizzi email? Cioè, da dove li vanno a prendere? Come faccio io a dare il mio indirizzo email a una persona che non so, non conosco? Cioè, io di solito, non so, uso la mia mail per darla a un albergo per prenotare, certo, a un amico. Da dove le posso andare a attingere? Guarda, non voglio essere drammatico, ma dire ormai è troppo tardi, sanno già tutto di te, però te lo faccio dire da Mattia Monga, che è ricercatore all'Università di Milano. Beh, allora, molti indirizzi di mail sono pubblicati sulle pagine web magari delle persone, per esempio penso al mio, il mio è presente sulla mia pagina dell'università, quindi alcuni di questi personaggi quello che fanno è raccogliere, girando sul web, questi indirizzi. Un'altra fonte c'è un vero e proprio commercio di indirizzi di posta elettronica. L'utente, l'ascoltatore gli chiedeva proprio, cioè io fondamentalmente non ho mai dato il mio indirizzo mail, scrivo a 4 persone, sono sempre la stessa, poi mi ritrovo in una situazione in cui sono inserito in mailing list di spam terrificante. Come fanno perché poi qui c'è tutto il discorso, ma come catturano i miei dati personali? Beh, allora, innanzitutto potrebbe essere benissimo che l'albergo a cui ha dato dato il proprio indirizzo di posta elettronica, viene attaccato da qualcuno e poi quell'indirizzo viene rivenduto. C'è però anche un terzo canale, diciamo, che soprattutto se l'indirizzo mail è molto semplice, può essere inventato e a caso. Questi, siccome appunto su internet non ci sono problemi di numeri, tanto non costa niente mandare le mail, posso permettermi di mandarne 1 miliardo in cui ne arriveranno solo 1 milione, ok? E quel milione però arriva con indirizzi casuali generati estraendo le lettere da un sacchettino. Sì, tra l'altro loro, Antonio, ci guadagnano in ogni caso, cioè chi produce spam a questi livelli, e qui c'è il tema che utilizzano magari dei server dislocati in Italia, poi di fatto bastano che 2 o 3 persone cliccano quello che non devono cliccare e hanno fatto la giornata, mi viene da dire. Assolutamente sì, ci sono stati alcuni processi, a questo punto siamo arrivati a 4-5 contro alcuni dei re dello spam, che sono stati arrestati anche negli Stati Uniti e sottoposti a delle multe epocali. In pratica il business è un business in cui il guadagno sta nei grandi numeri, è una cosa che noi non potremmo neanche immaginarci nel mondo degli atomi, ma nel mondo del bit funziona. Come diceva giustamente Mattia Monga un attimo fa, non si tratta di mandare qualche migliaio, ma si tratta di mandare qualche miliardo di mail di spam a un quantitativo di caselle di posta enorme, sperando che uno 0,000 qualche cosa risponda. Spesso si tratta di mail anche impresentabili, in quel caso forse c'è più il discorso dell'infezione virale, ma spesso e volentieri si tratta invece di mail che propongono cose che magari a te e a me non interessano, non ancora, ma che peraltro, questa era una battuta. No, infatti adesso lo ti denuncio, cioè adesso parlerai con i miei avvocati e col mio psichiatra, vai avanti. Ma che sui grandi numeri appunto ne bastano alcuni. Sì, tra l'altro diciamo che non avrà, cioè quando uno si trova bombardato da, appunto, da mail con messaggi che parlano di miglioramenti sessuali, così non si è fatto nulla di male, molto no. Probabilmente, cioè, hanno catturato loro l'informazione. Assolutamente, e non ci dimentichiamo poi che queste cose possono essere anche estremamente pericolose quando si tratta di medicinali, cibi, alimenti, eccetera, o prodotti commerciali, certo, per la salute delle persone. Allora, sono arrivati moltissimi SMS sul tema io ho il Mac, quindi sono bravo, non ho il virus, invece quelli col PC hanno... Insomma, usciamo un attimino dalle more, perché stavamo dicendo con Antonio Dini che in realtà il problema è un altro. Sì, e poi lo giriamo magari a... Certo, i problemi sono differenti, perché tutti i computer di qualsiasi genere, razza e colore, Linux compreso, ovviamente hanno la possibilità di avere virus, non c'è niente tecnicamente che lo impedisce, e li hanno. Sono molto meno come quota di mercato, quindi circolano meno virus, è meno facile che girino, quindi chi usa quei computer molto difficilmente ha l'antivirus installato. Però quando gli arrivano le mail o materiale che poi passa ad altri computer, cioè i PC, non lo filtra e quindi diventa un untore, un portatore sano di virus per altri computer. È vero, Roberto Paleari? Sì, annuisce. Sì, esatto, esattamente così. E, come per cui prima, attenti anche a fare troppe guerre di religione, nel senso che benissimo non avere i virus, però poi nel momento in cui tu diventi un untore, cioè diventi, certo, un pezzo di un meccanismo che propaga il contagio, allora... Addirittura recentemente alcuni virus hanno, per Windows, hanno iniziato a intaccare anche Linux, perché su Linux esiste Wine, che è un sistema per eseguire applicativi Windows su macchine Linux, e quindi Wine esegue anche virus. È talmente bravo che, esatto, emula anche... Sì, ecco, ma lì l'obiettivo di andare a colpire Linux, che ricordiamo lì veramente sono numeri... Beh, sui server sono numeri importanti, però insomma diciamo che i portatili Linux sono pochi, nulli. Ma diciamo l'obiettivo... è colpire il più alto numero di persone possibile. Poi, visto che in questo momento la maggior quota di mercato, come diceva prima Francesca, è Microsoft, quindi chi scrive malware, che ovviamente fa i suoi interessi, cerca di scrivere virus che siano indirizzati principalmente a sistemi Microsoft. Io vorrei, perché di solito quando parli con gli esperti di sicurezza o gli informatici, a noi giornalisti, Luca, ci accusano sempre di una cosa, cioè che diciamo a sproposito la parola hacker è una buona parola, credo che gli informatici che sono qui lo possano confermare, sono persone che hanno grossi talento per l'informatica. Qui invece stiamo parlando di persone che sono dei veri e propri criminali, perché è la criminalità, ahimè, anche organizzata, che collabora a costruire queste cose, tant'è che sarebbe auspicabile sempre maggiore collaborazione fra gli esperti di informatica, aziende, certo, e ricercatori. Diciamo che su Nova noi questa battaglia per sdoganare una parola che ha brutta pubblicità la facciamo ogni settimana, però diciamo, cioè, l'hacker è colui che è lo smanettone, colui che vuole entrare nel merito delle cose. E questo, diciamo, che ci piace, ecco. Ci piace, sì. Il cattivone si chiama cracker, invece. Il cattivone si chiama cracker, che non si mangia. Allora, insomma, abbiamo fatto un po' di vocabolario. Io ringrazio Mattia Monga, ringrazio Francesca Di Massimo di Microsoft, ringrazio Roberto Paleari, entrambi dell'Università di Milano. Ringrazio soprattutto Antonio Dini e l'appuntamento è per domani. Ciao!